Rescio. Un piccolo spaccato delle ultime 2 settimane. Solo in Italia può succedere. E l'italiano medio è sempre pronto a credere. Dalla fede a fede, dal ventennio a Berlusconi. Omissi segreti quanto sporche sono le tasche dei padroni. Solo in Italia può succedere. E l'italiano medio è sempre pronto a credere. Dalla fede a fede, dal ventennio a Berlusconi. Omissi segreti quanto sporche sono le tasche dei padroni. C'è chi rischia la prigione per la ganja. Ma la corruzione nel mio stato la chiamano mancia. Che la legge uguale perma, vi si sgancia chi è più ricco. Prima che passi in giudicato, un reato è già prescritto. E il TG grossolano ha uno strano svarione, raccontando che la Cassazione in terzo grado al caso Mills ha dato piena soluzione. Io non ci credo ad una svista di questo giornalista e non mi credo complottista. Credo che in tempo di elezione faccia comodo un errore che rassicuri l'elettore qualunquista. Io non credo nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel progetto camorrista, nelle mani di costoro. E quest'oggi sono qui per smascherare a modo mio le cazzate raccontate da chi si crede Dio. Solo in Italia può succedere. E l'italiano medio è sempre pronto a credere. Dalla fede a fede, dal ventennio a Berlusconi. Omissi segreti quanto sporche sono le tasche dei padroni. Solo in Italia può succedere. E l'italiano medio è sempre pronto a credere. Dalla fede a fede, dal ventennio a Berlusconi. Omissi segreti quanto sporche sono le tasche dei padroni. Siamo i fantocci del mondo occidentale. E con Google condannato la censura è digitale. Hanno accusato il mezzo, non chi l'ha usato. E da adesso pagheremo il prezzo da pagare. La situazione si fa scura se chi ci dà un servizio ci deve controllare. Non è una lieve differenza, ma è come cambiare l'altezza fra la pianura ed il crinale. Non sono i social network che gli riempiono la testa di stronzate. Se i vostri figli sono così, decisamente per il modo con cui ancora li educate e ancora state dalla parte di chi vuole il controllo delle carte di ogni altro giocatore. E ascoltate le parole del potere che vi fissa con lo sguardo del fratello maggiore. Solo in Italia può succedere. E l'italiano medio è sempre pronto a credere. Dalla fede a fede, dal ventennio a Berlusconi. Omissi segreti quanto sporche sono le tasche dei padroni. Solo in Italia può succedere. E l'italiano medio è sempre pronto a credere. Dalla fede a fede, dal ventennio a Berlusconi. Omissi segreti quanto sporche sono le tasche dei padroni.